esatto, l'immagine preferibilmente è valvolare, il ricetta su tettura. Per forza, oppure se è un bel base anche a transistor te va bene lo stesso. Guarda, io ne uno che è nuovo fiammante, non ti dico il nome, vabbè, te lo dirò in diretta. Tanto non lo sto usando, è nuovo, nuovo, nuovo, perfetto, non ha un graffio di nulla, attacca le base, funziona a 110 volt col suo trasformatore, ho comprato la GBC e trasformatore da 110, da 220 a 110, col suo microfono originale, è una bellissima radio americana, però sinceramente io non l'ho mai usata, l'ho accesa qualche volta, ce l'ho in stazione, ogni tanto l'accendo per farla camminare, però utilizzata mai. E poi c'ho il gemello nel senso di un'altra marca, il Pace, sono radio molto simili. Sì, già capita, vediamo un pochettino. Perfetto, perché col Tanner non rende con la radio, con il Blue 4 c'è una bella modulazione forte e chiara. Facciamo un attimino di bianco, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare nel frattempo. Attenzione, chi vuole entrare avanti? Nessuno. Di nuovo a te, Claudio. Sì. Ok, scusatemi, sto sistemando una roba qua, se non mi vola tutto. Ok, no, no, sono contento, la radio, ti piacciono questi sistemi di trasmissione vintage. Diciamo, ormai tutti stanno andando su questi baracchinetti di nuova generazione, che a me non piacciono. A me le stazioni base, il tuo funziona a 220 naturalmente, o a 120, a 110. Yes. sì, infatti la saremo attenti. No, il Rovis che ho io è a 110, c'è un trasformatore dietro per alimentarlo, un nuovo ho comprato la GBC, l'ho messo con l'attacco, perché l'attacco americano sono quelli a piedini piatti, non è visto come il cavo di alimentazione, la spina non è la classica tonda nostra, sono dei piedini piatti, tipo una lametta, dai. Gli originali americani di quell'epoca erano tutti a 110, poi piano piano quando hanno iniziato a importarli in Europa hanno messo anche la doppia alimentazione, 110 e 220. E cosa ti volevo dire? Mi è mancato il corso. C'è la natura della banda laterale o no questo che sto utilizzando adesso? Di quel tipo di radio, a parte la bellezza e le dimensioni e tutto, e il DAC, se devi investire trovati un bel DAC, naturalmente che sia in ordine, che non sia manomesso, quello è il top. C'è nessuna radio più bella di tutti, di quelle, perché è bella, con gli strumenti grandi, visibili, eccetera, sembra proprio una cosa fatta bene. Poi c'è più grande di quello come dimensioni, che ce l'hanno sia Marco Scotto che Walter, i radioamatori hanno il tram, non so se la conosci la radio, una radio più ancora più grande del DAC, però non è bello come il DAC. Thank you. comunità, c'ha belle cose giuste e le cose che servono, niente da dire, bellissima, proprio mi piace come completezza, è inutile avere scenografie, lui c'ha le cose belle, ottime e funzionali. Su 10 che vuole entrare. Io vi saluto solo per un saluto, eh? Ciao Claudio e ciao Roberto. Buona serata a tutti, sto facendo cose. Guarda che ti ho mandato un WhatsApp, dice stavi parlando del DAC. Ciao. Ma chi l'ha mandato? Te l'ho mandato, ti ho mandato proprio una carta. Ciao Claudio, buonasera, ben sentiti a tutti e due. Sono entrato solo per salutarvi, ok? Ciao. Ciao Claudio, ben sentito, ti l'ho conservato bene, non lo darei a nessuno con l'apparecchio. E come vedi ti ho mandato la foto, vuol dire che è qua, è sempre costruito benissimo, sempre nuovo nuovo, funzionante, è spento perché intanto non lo sto usando, però ogni tanto già l'accendo. Dai, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Claudio, alle prossime, ciao ciao, vai Claudio. Manda la foto. Allora, gliela mando. Sì, ti ho mandato quello che mi ha mandato Claudio col DAC, controllatelo se ti piace. Claudio, ci sei ancora tu? Salviero, si è allontanato. Claudio Di Muro, ti ho mandato la foto che mi ha mandato Claudio, questo secondo me è il più bello di tutti. Funziona bene, ma lo sciuro è quello che riusciva a tirare le prestazioni migliori. Sì, uno prende la luce senza nicola, ma c'è così da me. Mi piacciono più quelli della carne, non lo so perché, essendo umano di qualcosina, però mi piacciono molto quelli della carne, perché sono due microfoni a perfetta connessione. Esempio, posso stare cercando un super side kick, se lo trovo, però appunto che non ha molte differenze dagli altri carne, perché mi avete montato su internet e pratica c'è la scheda che monta il carne a quello grigio. Non lo so cosa cambia rispetto all'altro carne più vecchio, ho visto quello che manca il tastino, quello con il radio, ha comunicato l'elettronica, ormai capito non hanno quasi molto a che fare con il tastino, ho visto, non è che ho trovato grosse differenze, secondo me è stato più bello perché c'ha il computo cromatico tra i carne, però sono identici perché io ho guardato da poco e quindi non ne vale la pena molto, ma davvero, ma se lo trovo per venire, lo posso anche comprare, ma a spendere mi costa più fare che l'altro giorno perché non ci sono neanche pensato. No, è preciso, identico, non cambia quasi niente. Gli hanno messo questa cromatura solo per questioni di mercato, per dire che c'è la rivoluzione, è come quando ti metti la macchina, la versione base e la versione super, che ti mettono le cromature, è la stessa cosa, lo stesso microfono, non cambia niente. Poi sta prendendo prezzi assurdi, fuori di testa. Io adesso ho il patch, per farti un esempio, questi vintage, stanno prendendo piede, soprattutto negli Stati Uniti, perché forse c'è più richiesta. Il patch che c'ho io, il che cos'è questo, l'81-93 base originale americano, che l'ho pagato qua, ma proprio Claudio me l'aveva comprato, 110 euro il primo base che ho avuto. Un altro giorno l'ho visto su internet, negli Stati Uniti $980 la stanno vendendo e lo comprano. Sì, digitale a diodi luminosi, tre strumenti, 3, 6, 8 pomellini sotto potenziometri e più c'è un pomellone grande che serve come cambio canale. E c'è la modulazione eccellente, perché io col Tanner più 3 tutti me l'hanno vantato, hanno detto una radio spettacolare. L'unica cosa è che in ricezione è molto rumoroso, satura subito, se c'è un segnale forte va in saturazione, devi chiudere tutto se non fa niente. E poi c'ho il noise, che è quello nuovo, con le fiancatine in legno, il frontale con tre strumenti verdi, però non ha l'orologio, non è quello con l'orologio, diciamo come concezione è abbastanza simile al coso, al patch, anche se il patch mi piace di più a me, e quello è una buona radio lo stesso. E poi c'ho quello preferito da me, il Multicom, che è una radio di ultima generazione, in stazione base a 220, che funziona di una meraviglia, più c'ho un altro base, sempre della Intec, quello nero leggermente inclinato, però il top dei base che ho io è l'Intec, è una bomba, c'è una ricezione da paura, silenzioso, non satura, c'è una varia di funzioni, puoi fare tutto quello che vuoi, sembra una cape perché parte da 25 e mi sembra 32 arriva. La radio, se la provo un'altra, la un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare nel frattempo. Avanti su 10. Non ho sentito più a Eugenio, sono da un po' che non l'ho sentito. Chi c'è davanti? Sento gente lontano parlando. Li senti tu, Claudio? Yeah. c'ha le bande laterali questa che sta usando adesso? Negativo, no, questo è solo un numero di questa maglia, è un metro che è diverso dagli altri contatti che possiedo, dal 30 al 35, dall'altro 25, capito, è molto diverso. Io ho altri due contatti come questi, 25 qui, hanno una calma diversa della ricezione, questo è molto una più piccola di ricezione, tu c'hai i cannelli di sotto dove c'è lo schermo della radio, in pratica dove fa vedere la sigla delle tue cose, delle tue cose, facendo il tuo via così ti farà guardare cosa che non hanno gli altri contatti che possiedono, beh capito, quindi ormai sarà uno dei primi che hanno fatto questo, che si è portato dall'America, nello schema proprio risulta che monta tutto con calcola, quindi non è stata fatta nessuna modifica, la radio praticamente non è mai stata l'abbiamo controllata, fa tutta la grande originale, marchiate la tagliette, capito Robè, tutto sta a minimo, ne ho messo soltanto due perché ne mancavano due, però gli altri sono tutti originali, e sotto quando abbiamo aperto il pannello anche era come che era incollato, capito, a distanza di anni, c'è tutti i condensatori nuovi, non c'è stato nessun sostituto, nessun condensatore, Robè, guarda, perfetta perché dice che ce l'aveva dentro un armadio questa conservata, capito Nicola, non l'ho usata mai, me l'avrà accesa avuto qualche volta, capito, tutta fatta a millesimo proprio, l'unica cosa che ho dovuto fare era la lucetta dello smitter perché era fulminata, però ci abbiamo messo un altro smitter perché proprio ce ne ha un sacco di questi contatti, ce ne ha avuto tanti, adesso tutto a posto, tutto originale, Robbino, quindi... Sei un attimino ancora di bianco, se qualcuno vuole entrare, avanti su 10. Strano, oggi non c'è nessuno, qualche volta l'altro giorno c'era un sacco di gente, non dico confusione, però c'era un po' di gente. Oggi io e tu e basta, va bene così, allora, di nuovo a te Claudio. Sì, può essere, non puoi essere, ma a volte entrano, a volte non entrano, e poi ognuno fa le sue cose, perché i suoi impegni, quello è trovare il tempo per fare il radio, e cosa che capita spesso a me, anche quando sono da fare a fare altre cose, piuttosto anche altri occhi, oltre alla radio, vado in bicicletta, vedo che suono l'organetto, perché sono anche musicista, e tutte queste cosette qua, adesso abbiamo preso anche un cane, Robè, quindi passo anche il mio tempo libero, che ho a volte quando sono in casa, capito, quindi in radio anch'io non è che sono molto, molto operativo, però tento di entrarci il più possibile quando posso, capito, quindi... Sì, anche io nei momenti di libertà diciamo che c'ho un sacco di cose da fare, ma serve come si dice, valvola di sfogo, così almeno mi rilasso un pochettino, infatti qualche chiacchierata di argomenti piacevoli, interessanti, fa sempre bene, scaricare la tensione del lavoro e di tutto il resto. Sì, infatti, Robè, le cose che ne colla, lui è molto sportivo, sempre fissato con la Juve, fatto le loro, seguo il calcio, ma io sono molto malissimo. Infatti in Milan, però non è che sono molto sportivo, almeno che mi non si giochi nel mondiale, mi come il prossimo anno perché non fai mondiali, e allora seguo rispettivamente il calcio, così come lo seguo adesso, però capito di quest'anno mi tocca il mio gruppo di qui, mi stanno seguendo, tutte queste cose qua, però non sono molto, molto sportivo nella verità, io credo. Prima seguivo il moto mondiale, conoscevo la moto, so che quello ho smesso di seguirlo da un po' di anni, sono tutti questi sport qua che mi hanno tutti, sono tutti, come si chiama, su Sky, adesso la Formula 1 e quindi non li seguo più neanche, anche perché non mi interessano più come mi interessavano prima, quando ero più giovane, capito, e l'unica cosa che mi guardo come passo il tempo sono la bicicletta, no, guardare i film al computer, queste cose intellettuali, e guardare anche le radio, insomma, perché sono molto appassionato di radio vintage, capito, Nicola invece sta sempre con un calcio, fissato con un calcio, lui parla sempre di quelle cose, adesso mi chiedo se non faccio avere uno di questi microfoni dell'Axe Nero che mi sta bene assegnando, perché ce ne chiedo uno di quelli che abbiamo noi, però quindi mi servono a me, che li posso dare, capito, quelli da tavolo, non mi intendo, riprendi. Vabbè, riprendo perché mi hanno chiamato, dai, ti devo lasciare, ci sentiamo, non dico più tardi, ma la prossima volta. Grazie del QSO, buon tutto, salutami tutti in casa e alle prossime. Ciao ciao. Ciao, QSL, Roberto, sì, mi ha fatto piacere darti un super saluto, ti auguro buona serata, tu faccio il tuo richiesto qua, dai, perché non ti conosce nessuno, dai, non so se ci vedi una storia. legge c'è qualcuno? Tu sei quindi, e tu si può quindi a tu. Perché? A tua ora. Ehi Alu, stavo provando un attimino perché non usciva il microfono, capito? Si sentiva un po' di alternanza. Ogni tanto mi fa questo difetto. E voglio un piccione. Sì, magari è da sfruttare un po' di prodotto, nei contatti, Sicuramente, sicuramente. E oggi è pompente già. Ora, andava. Ah, tu sei trovato attento a vedere gambe. C'è caldo, porca paletta, non se ne è andato di sul caldo. Lo so, è Marina. A posto? Marina a casa sua, sì, io sono a parlare, ero lì. Ho cenato, sono qua. Ok, dai. Vabbè, andiamo piano. Rubia. Non ci sono andato questi giorni. Al circo non ci sono passato per niente. Perché non Sara non sta tanto bene, quindi non è che andano in chibi, no? Non è che a prendere una birra, non ci sono andato per niente. Anche un bel voce, mi pigliava la birra, cioè ci usciva a trabaglio, passava, mi pigliava la birra e poi guardava a casa. Ma non ci sono andato per niente perché non sto bevendo niente. Sto disintossicchiando. E Antu, sono muti in muti, io me ne bevo una a pranzo, una 33, una mattina, una cena. Finito. No, io sto anche giorni e giorni senza berne, capito? Perché devi un pochettino anche rilassarti, perché insomma, non è che puoi stare il gnadino. Ma ci sono giorni che bevo solo acqua. Capa? No, anche io. No, io no. Mi dispiace, ma no. Tutti i dì non ce la faccio. E che poi mi rende anche nervoso, mi rende bene, quindi lascia perdere. Sì, riga. Allora, se sei nervoso non li di... Non mi rende nervoso, non mi fa salire male. Ah, nel senso che quando tu bevi ti raga sempre chi su gozzo ti raga e magari vai a travagliare e sei un po' carino agitato. Mi è capitato e qui evito di bere. Oppure mi piglia in allegria, ma troppa allegria poi, come se ti abbia a fare cura, fa. Meglio lasciarla perdere la binocchia. Dai, vabbè, anche quello c'è per lui, si deve, ma te ne auto, cazzo di fare, va, vado, ci sta sopra i miei piedi, va. Anche quello c'è per lui, va, tu, buia, mamma mia, questo. Ecco qua. Anche adesso vado a risparmio, chi due lo ha di, lui, quattro, mi rivolti su sei, e sono belli di nato. Già lo so, non posso essere invecchiano, per lei va da lì, quindi costa poco, una gascia è un euro qualcosa, e andava anche, infatti io prendevo da mezzo litro, mi è più comoda, più leggera di tutto. Mamma mia, non ho visto. No, io prendo anche quelli da 2 litri. Sì, anche lui, anche mamma, anche Marina. Allora, mi è comodo a me in camera. No, già la compro già qualche volta, dalle Rosfin pure chi dà. E poi sette puente se mi chi dà. Con quelle bottiglie da 1,5 litri. Con la marca loro. Allora, quella da 2 litri è San Martino. Ma non San Martino, scusa. San Giorgio. E a chi non lo gioco? Tutto rubisci di Zinia, cazzo. No. Io comunque l'ho vista alla fonte, mi dopo. Io sono andato a Siliqua. Aspetta un attimino, blocca per quanto sole. Allora. Ma che so? Cosa c'è? No, quel gioco. Ma ti ho sbagliato un proiettore, mi. E là. Ehi, non l'ho incoccato, non ho avuto tempo ancora per programmarlo, farlo, capito? E io sono più, va. Lo sono acceso e boh. Adesso non ho già avuto tempo di nulla, ma vediamo un po' questi giorni. Sì, voilà. Da pure può prendere lo schermo. schermo 100 pollici, cioè quello lato per il proiettore, capito? Andiamo, bene, andiamo. Mi sto provando, c'è il Snapchat, forse. Cosa è il Snapchat? Snapchat. Cos'è sta cosa? È per modificare le foto. Ho capito. E adesso... Adesso questi giorni provo il suo proiettore a vedere. Ma Bocciarà dice che è bello, io l'ho preso lo stesso. L'ho preso. Capito? Va bene a tu. Ma c'è, cos'è? Attacco VGA o HDMI? Tutto c'ha. Puoi mettere HDMI, VGA, quello che vuoi. Ah, quello usi anzi. Gabba. Bellino, va. Adesso lo proviamo. E via. Vedere come va. Come si comporta. Gabba, vai. Sono stanchissimo stanotte, ho acceso così, ma ascolti, se possiamo sentirci domani che sono a pezzi. Ehi, tu vai tranquillo, non ci sono problemi. Dai, buonanotte, buonanotte a tutti gli ascoltoni. Il mio segnale è sempre lo stesso da te. Sempre lo stesso, fratello, sempre lo stesso. Tu sei 9.40, io a 9.30 lì. Sono scala. Ciao, andiamo bene, dai. Dai, buonanotte, io mi trovo un poco, ciao ciao. Ehi, ya, ciao Antu, a domani, saluta Sara. Già sta bene, meglio, sì. Così, così, Ehi, va, piano piano, dai. Si deve svagare però, non deve stare chiusa in casa, uscire, svagarsi, sennò è peggio. Però se uno si intende male, Va bene, dai. Ci sentiamo, io già esce già, quando sta bene già, io ho voglia. Dai, buonanotte, ciao ciao. Ciao.